che segue Skodaza intorno a Minniti, che dovrebbe appunto tornare purtroppo un'altra volta nella nostra bella città. E comunque, prima di cominciare la lunga, come sapete, forse, spero, comunque spero non noiosa, scorrazzata all'interno dei giornali e delle cronache locali, vorrei cominciare la puntata, lo spazio di questa settimana con una, diciamo, con una notizia che non è una notizia che do io, ma è un commento, è un saluto, è un omaggio a un'anima che ormai viaggerà nella galassia o nei mondi, in uno dei tanti mondi che la sua fantasia ha partorito e che ha costruito per noi. Un saluto alla grande scrittrice Ursula Le Guin o Le Guin, non ho mai capito la pronuncia, comunque come spesso succede ci appropriamo di autori, romanzieri, narratori che siano. Con la pronuncia che gli diamo, quindi per me Ursula è Ursula Le Guin, anche se la pronuncia è sbagliata, mi sopporterete se la pronuncio così. La volevo salutare, per chi non la conoscesse, è un invito, caldeggio la lettura di alcuni dei suoi romanzi, che indubbiamente sono pietre miliari nella storia della fantascienza. Non solo della fantascienza, perché una scrittrice, appunto, una creatrice di mondi inarrestabile. Senza confini, che ha spaziato appunto dalla cosiddetta fantascienza, dalla scrittura distopica fino al fantasy. Fantasy di cui ricordiamo la saga di Earthsea o di Terra Mare, di cui appunto dal quale sono stati tratti da Miyazaki figlio, poi anche i noti cartoni animati che forse hanno avuto più successo che non la saga letteraria, che comunque è molto famosa. E appunto la connota come una scrittrice anche di fantasy. Per quanto riguarda la fantascienza, ne butto là solo due: La falce dei cieli, La mano sinistra delle tenebre e anche I reietti dell'altro pianeta, un testo sicuramente importante che tanti e tante compagne, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat probabilmente già conoscono, proprio perché diciamo. È un tentativo di mettere, tra virgolette, in scena anche un'utopia possibile e che, come nel sottotitolo viene detto, un'utopia ambigua, ambigua nel senso che quella degli abitanti del pianeta Narres è un'utopia che non è mai conclusa, che è sempre in fieri, è sempre in divenire, è un'utopia continuamente imperfetta che al suo interno porta contraddizioni continue e che devono essere continuamente migliorate, quindi questa è l'idea di ambiguità che c'è dentro la storia di Anarres, questo pianeta su cui si costruisce e si continua a costruire questa ambigua utopia. Ecco, proprio da Anarres, dal libro che in italiano è stato tradotto come I reietti dell'altro pianeta, mi pare in lingua originale fosse The Dispossessed. An ambiguous utopia, cioè gli spossessati, noi lo tradurremmo forse più diciamo marxianamente come gli espropriati, una ambigua utopia. Ecco, da questo testo, che appunto del quale continuo a consigliare la lettura, voglio leggere un estratto così come ricordo di Ursula e che ha a che vedere con le vicende che affrontiamo, che spesso sono declinate nel senso della rapporto tra materia, energia, consumo, ambiente e quindi questo sguardo che una delle figure in realtà marginali del libro ha in un colloquio con Shebeck, che invece è il protagonista, è un, così, una cartolina per quella che era la Terra, vista in un ipotetico futuro che è sempre purtroppo sempre più vero. Il libro è del 74, se non sbaglio, e lo sguardo che Ursula Le Guin, questo così tratteggio che dà della Terra, abbastanza angosciante, ovviamente non è una trovata letteraria, ma tiene conto di spunti che in quegli anni stavano emergendo. Non è sicuramente un caso che nel 72 quello che viene ricordato come Club di Roma dà alle stampe il primo rapporto sui limiti dello sviluppo e certamente certe linee di sviluppo, appunto, di quella che sarebbe stata la degradazione del nostro ambiente di vita, sottoposto a un fortissimo consumo di materie prime, a un riempimento di quelli che vengono considerati i pozzi, cioè le capacità di assorbire gli inquinanti da parte del pianeta, e il fenomeno già allora evidente del riscaldamento globale, facevano sì che in un libro di fantascienza, per quello che la fantascienza sociale ci permette di intravedere, di partorire un tratteggio del pianeta come questo, che l'ambasciatrice rende agli occhi di Scevec. Lo vado a leggere come saluto e poi chiudiamo questa parentesi che è già troppo lunga, con cui salutiamo ancora una volta Ursula. Ciao Ursula. Dice l'ambasciatrice a Scevec: il mio mondo, la mia terra, è una rovina, un pianeta rovinato dalla specie umana. Ci siamo moltiplicati e ci siamo ingozzati e abbiamo combattuto finché non è rimasto più nulla, e poi siamo morti. Non abbiamo controllato né gli appetiti né la violenza, non ci siamo adattati, abbiamo distrutto noi stessi. Ma prima abbiamo distrutto il nostro mondo. Non rimangono più foreste sulla mia terra, l'aria è grigia, il cielo è grigio, fa sempre caldo. È abitabile, è ancora abitabile. Noi terrestri abbiamo fatto un deserto, laggiù noi sopravviviamo. Siamo meno di mezzo miliardo di persone, una volta eravamo 9 miliardi. Puoi vedere ancora dappertutto le vecchie città, le ossa e i mattoni vanno in polvere, ma i piccoli pezzi di plastica no. Anche loro non si adattano. Noi abbiamo fallito come specie sociale. Poi continua, ma ci tenevo a leggerlo perché mi sembra interessante e illuminante. Era il 1974, ancora ciao Ursula. Poi, se appunto possiamo cominciare questa nostra lunga galoppata, la vorrei cominciare con due notiziole che mi sono, tra virgolette, avanzate dalla settimana scorsa. Come sempre dico, noi qui riflettiamo le notizie, le cronache con una settimana di ritardo, nel senso che il tempo per me per guardare, tra virgolette, spulciare e digerire un po' gli articoli per metterli insieme. Quindi quando lunedì andiamo in diretta, stiamo parlando delle notizie della settimana che è appena passata. Nell'ultima puntata mi erano avanzate alcune cose perché ero andato un po' lungo e per chi mi ha sentito si ricorderà che avevo chiuso con un po' di fretta. Due notiziole: una riguarda i volatili che si posano a peretola, i meravigliosi fenicotteri rosa o i Pink Floyd, che chiaramente sono minacciati da Toscana Aeroporti e dal progetto di nuova pista aeroportuale. Dice l'articolo del Corriere Fiorentino che peretola il riposo dei fenicotteri rosa per pochi giorni. Tornano i fenicotteri rosa nel Parco della Piana. Ogni inverno la migrazione degli uccelli passa da Firenze, anche se solo per pochi giorni. Lo spettacolo si può ammirare nei laghetti tra Firenze e Sesto, in quelle che sono le oasi della Querciola e di Val di Rose, e appunto che sono anche le zone in cui Boccaccio nel Decamerone racconta la novella di Chichibio e la gru, e sono appunto quelle le zone nelle quali già da allora passavano i fenicotteri rosa. Toscana Aeroporti, dice l'articolo, come sempre fa, rassicura che ci saranno appunto delle compensazioni, che nuovi bacini verranno ripiazzati nel caso del passaggio della pista, alla quale noi continuiamo ad opporci e stiamo senza ombra di dubbio dalla parte dei Pink Floyd e dei fenicotteri rosa. Un'altra notizia che mi era avanzata, questa ci tengo, forse sarà un po' lungo, ma la voglio leggere perché mi sembra davvero un capolavoro di razzismo, di costruzione del sospetto nei confronti di comunità che hanno elementi di diciamo culturali o comportamenti tra virgolette, scusate, uso spesso tra virgolette, ma non so come altro definirlo, in qualche modo diversi da quella che si stabilisce o si vorrebbe fosse una sorta di normalità, che non sappiamo bene cosa sia, ma così viene in qualche modo considerata. Quindi c'è un articolo sempre del Corriere Fiorentino a firma di un certo Jacopo Storni, che non conosco, che secondo me appunto merita di ritornare sui banchi di scuola perché ha scritto un articolo abbastanza angosciante, di cui tra l'altro non si capisce bene neanche quale sia l'aspetto, diciamo, repressivo o per cosa scattino le sanzioni di cui ora si parlerà. È un articolo che riguarda il sequestro di 50 serre dormitorio, controlli della forestale a campi, fertilizzanti sconosciuti e rifiuti, denunciato cinese. C'è quest'articolo al quale si accompagnano due fotografie, una foto a destra un po' più grande dove si vede sostanzialmente delle cassette di legno, quelle che si usano normalmente per la frutta e la verdura, ammucchiate con ordine direi, e quindi vabbè, niente, non dice niente di più, non è particolarmente esplicativa. L'altra foto sulla sinistra piccola dove si vede un water, un WC, un sanitario, che è stato montato probabilmente un pancale con un bidone d'acqua, un contenitore bidone d'acqua, come si fa sostanzialmente in tutti i campi. Forse, anzi, ho conosciuto proprietari di orti italiani, diciamo così, che la facevano direttamente sulla carta di giornale o direttamente nell'orto, senza neanche il water, quindi non è neanche particolarmente strano o degradante questo scenario fotografato, che è anche chiuso con una strutturina, con delle tende, quindi per garantire una certa privacy. Il commento è: nessuna regola. Nella vasta operazione di ieri sono stati sequestrati 3,8 ettari di coltivazione e 50 serre. Alcune erano adibite a dormitori, anche con i WC, ma senza le fognature. La verdura finiva nei mercati rionali e nelle cucine di bar e ristoranti, denunciato il titolare cinese. Quindi esattamente non si capisce neanche nell'articolo se le denunce sono per una sorta di economia a nero, per cui questi dalle serre poi vendevano i prodotti e non c'era, diciamo, non c'erano, non venivano seguite il normale iter sul fisco, oppure se questa questione dei rifiuti bruciati è particolarmente rilevante. Dalle foto non è, e nell'articolo non si specifica. L'articolo non ve lo leggo tutto, vi leggo alcune parti che mi sembrano particolarmente significative rispetto al discorso che facevo prima, cioè a fronte di una situazione non ben chiara che non viene specificata. Però c'è una costruzione dell'immagine che si dà di questi stranieri, di queste serre cinesi, che appunto, più che tentare di costruire comprensione, convivenza, pur nelle diversità, invece allontana e costruisce muri e barriere che poi possono diventare pericolose per la nostra convivenza civile. Campi Bisenzio, parte l'articolo, l'odore acre di plastica bruciata si confonde a quello dell'insalata. Lattughe verdi a perdita d'occhio dentro serre di plastica ingiallita. C'è una baracca di assi in legno, dentro si intravede un water, però non ci sono fognature. E poi una serra buia con materassi per dormire su pellettili, uno specchio, un tavolo, sopra una scatoletta di spaghetti, un pentolino di riso, bottiglie d'acqua, bacchette cinesi e poi le sementi racchiuse in buste di plastica con ideogrammi orientali per far germogliare il terreno di prodotti agricoli che finiscono sui banchi dei mercati, nelle cucine dei ristoranti cinesi. Sembra un altro mondo, ma siamo a Campi Bisenzio. A pochi metri c'è via Barberinese, l'incrocio dell'indicatore. In mezzo, quasi una terra di nessuno, vasti campi di verdure presi in affitto da agricoltori cinesi che qui lavorano e molto spesso ci dormono, trasformando le serre in veri e propri dormitori. Ecco, qui io credo che questa parte, che poi è quasi tre quarti dell'articolo totale, sia significativa. Per come ho detto, si sente appunto gli ideogrammi cinesi, qualcosa di incomprensibile, oscuro e quindi potenzialmente pericoloso, le abitudini alimentari, il fatto sottolineato più volte che non ci sono fognature. Cioè, ma negli orti quante persone hanno il campo, l'orto, e quando gli scappa passate il francesismo, da cagare, la fanno direttamente nell'orto. Ora, mi sembra una cosa abbastanza normale che non debba diventare un argomento da articolo di giornale. Dall'altra parte anche la questione del dormitorio, cioè qui si dice che ci sono dei materassi, non che ci sono appunto dei dormitori in quanto tali, ma dei materassi che credo per chi lavora e lavora in campagna e fa un lavoro fisico, se ha un momento di riposo, poi potersi appoggiare su dei materassi è credo una cosa del tutto umana. Quindi non riusciamo a distinguere il vero dal falso, il reato dal semplice magari comportamento magari originale, ma anche assolutamente comprensibile. Quindi torno a dire, non si capisce il tenore di questo scrivere. Scovare le irregolarità nelle serre cinesi. Dopo l'ispezione di ieri sono stati sequestrati 3,8 ettari di terreno e 50 serre. Trovati sul posto cumuli di rifiuti tossici bruciati accanto alle coltivazioni. Non sappiamo di che rifiuti si sta parlando, non è specificato, non si specificano le quantità. Diciamo che ci dobbiamo fidare, non entriamo troppo nel merito. Chiaramente tutto quello che ho detto non va letto nel senso di una difesa a oltranza di nessuna comunità cinese, perché appunto compiere reati o non compierli di tipo ambientale o meno non ha niente a che fare con l'etnia e non ha niente a che fare con la nazionalità, non ha niente a che fare con i gusti alimentari che si consumino piatti di polenta con il cucchiaio o che si consumino piatti di riso mangiati con le bacchette. Ecco, questo è in sostanza il discorso che volevo arrivare a fare. Andiamo avanti, riprendiamo appunto le notizie più proprie del periodo del quale ci stiamo interessando. Andiamo alla Nazione del 30 di gennaio, si riparte con il tema dei rifiuti e legato e declinato, come spesso già commentato, sempre in salsa ordinista, cioè legato al decoro urbano. La Nazione ha lanciato ormai questa campagna sostanzialmente di comunicazione e di rapporto diretto in qualche modo con la cittadinanza e con gli abitanti dei quartieri, per cui chiedono di far sentire la propria voce segnalando alla Nazione, e c'è questo inserto, diciamo, del cittadini cronisti. Si parte con valanghe di segnalazioni dai cittadini cronisti: in tanti avete denunciato l'emergenza rifiuti selvaggi. In centro come in periferia continuate a scriverci su WhatsApp al numero e bla bla bla. E si vede una signora che mette un cartone dentro il cassonetto della carta. Forse vuole essere un, diciamo, di buon esempio a confronto di quello che invece sta succedendo fuori, appunto il cittadino cronista, e ci sono segnalazioni e fotografie da diverse parti della città e dei quartieri, da vie del centro fino ad altre. Come ho già avuto occasione di dire, e lo ripeto per chi mi ascolta magari una volta sola, ci sono tematiche o cose che io a volte ripeto. Per chi mi dovesse ascoltare regolarmente, non so se esistono questi 25 ascoltatori come i lettori del Manzoni, ma se mi sentono ripetermi, mi sopporteranno, comprendendo che a volte qualcuno potrebbe non sentire, e quindi alcune cose che riteniamo significative le ripetiamo. Per esempio questa, cioè l'iniziativa Scattonetto, lanciata dalle mamme non inceneritore, aveva ed ha tuttora proprio il senso di voler stimolare un protagonismo degli abitanti nei confronti di quello che è il tema dei rifiuti. Ma ovviamente le denunce e le foto indubbiamente significative che sono arrivate sul sito e sul blog delle mamme non inceneritore, dedicato appunto alla campagna Scattonetto, non sono da declinare nel senso del decoro urbano, non vanno a insinuare una latente e continua sfiducia nei confronti del prossimo, ma è il tentativo di mettere in evidenza le difficoltà legate a una gestione dei rifiuti e a una pulizia appunto delle nostre città, della quale i primi responsabili sono proprio i gestori del servizio, che dimostrano che quando vogliono orientarsi in un senso o in un altro lo sanno fare, e che non tutto o non solo dipende dalla cosiddetta inciviltà dei cittadini. Invece, questo tipo di comunicazione con le fotografie, con le facce costernate degli abitanti che segnalano la situazione degradante dei rifiuti, invece va proprio in questo senso. Sembra proprio che non ci sia nient'altro da fare e quello che si accredita poi diventa, la sfiducia nel prossimo e la neutralizzazione di ogni, possibile alternativa nella gestione dei rifiuti. Cioè, ne siamo sommersi, ce ne sono troppi, ci sono, non c'è possibilità di differenziarli perché addirittura non si riesce nemmeno a far mettere gli ingombranti dove devono stare e quindi, l'indifferenziata è l'unica soluzione possibile. Incenerirli d'altronde l'Europa ci impedisce le discariche, quindi cosa possiamo fare? Il discorso non è, fatto in modo esplicito, ma ci sembra che nel tempo e negli anni sia la cornice all'interno della quale tutto questo si va a sviluppare, cornice che noi continuiamo a ritenere del tutto errata, perché laddove in primis i gestori e i decisori pubblici hanno investito risorse sia economiche e forse soprattutto educative, e diciamo in qualche modo culturali, le cose sono cambiate. Certamente i contesti sono importanti e infatti uno degli aspetti che lo stesso commento della Nazione, lo stesso articolo fatto sotto il titolo Oggi focus su rifiuti, sacchetti selvaggi, che strage, mette in evidenza è il fiorire di attività economiche e di trasformazioni di abitazioni del centro storico in abitazioni per stranieri e per turisti, cioè questa dimensione della città vetrina nella quale le storiche abitazioni diventano appartamenti in affitto per stranieri, quindi city users che arrivano, usano la città per un periodo e se ne vanno, pone dei problemi anche rispetto alla gestione dei rifiuti. La trasformazione di quelle che potevano o sono state botteghe, negozi, attività storiche in un maggior numero di ristoranti, luoghi dove c'è un maggiore consumo di, appunto, sì, di prodotti, fornisce ulteriori problemi. Infatti, dice, nelle zone centrali invece a incidere è l'esplosione di ristoranti e di locazioni private per i turisti, spesso poco rispettosi delle regole. Ecco, una delle possibili spiegazioni, declinazioni di questo ragionamento sui rifiuti, che indubbiamente è complesso e rispetto al quale dentro i movimenti, dentro le associazioni e i comitati continua una riflessione permanente, certamente però non vincolata a una sfiducia nell'umanità e all'impossibilità di cambiare, cosa che invece, ripetiamo, è possibile e è già dimostrato nella pratica. Andiamo un po' avanti, il 30 gennaio, una notizie dalla Piana Fiorentina, diciamo dai comuni di Sesto e Campi, a Sesto le discariche degli incivili, Sesto rifiuti, blitz e multe. Segnalazioni di abbandoni di rifiuti sono quotidiane. Il fenomeno riguarda le discariche più o meno grandi in zona Parco della Piana, in collina, ma soprattutto i materiali abbandonati nelle vicinanze dei cassonetti. Quindi c'è l'immagine di questi, non so se volontari o retribuiti, anche se dall'età sembrerebbero persone da pensionamento che però insomma sono a lavorare, che ripuliscono un fosso non ben identificato. Quella del Parco della Piana, o di quello che dovrebbe essere il Parco della Piana, è una vicenda sulla quale abbiamo insistito fortemente anche come attivisti e come militanti del presidio Non ce ne ritorno in aeroporto, ed è una situazione nella quale i controlli e una presenza diciamo delle istituzioni sono aumentati proprio con il cambio della giunta e proprio in virtù della presenza e dell'attivazione dei cittadini. Intorno al presidio abbiamo cominciato proprio quando entrammo con le prime giornate di ripulitura, proprio perché quella che oggi è stata inaugurata, insomma oggi, non oggi, ma già un anno fa è stata inaugurata come ciclabile contro le nocività, Di fatto era il budello finale di una strada che poteva essere imboccata dalla parte di Sesto Calenzano e percorsa fino in fondo per arrivare fino al ridosso di Via dello Smannoro. E lì, sostanzialmente, siccome era il fondo cieco di questo budello stradale che girava in una zona per lo più buia e poco controllata, proprio anche perché poco abitata, che è quella del Parco della Piana, venivano buttati rifiuti. Abbiamo trovato pezzi d'amianto, abbiamo trovato plastica, a volte erano stati anche bruciati probabilmente dagli stessi che li avevano sversati. Ecco che la situazione è stata fortunatamente aperta proprio perché a gruppi di abitanti hanno cominciato a vivere o a porre attenzione in quella zona che deve diventare il Parco della Piana, ma che per molto tempo non lo è stata. Teniamo anche conto che le colline, per chi c'è stato o l'ha presente, diciamo che ai piedi delle quali comincia il presidio, no inceneritore e nuoro cotto, sono materiali di risulta dello scavo TAV, e quindi sono terre di riporto che sono state poi ricoperte con teli di plastica sui quali poi è stata rimessa altra terra e è cresciuta dell'erba, a dimostrazione che la natura non si arrende, ma è una zona che di fatto è stata usata come discarica dal livello istituzionale stesso, perché sono stati gli enti pubblici che hanno cominciato a scaricare quella terra lì, dando a quella porzione del Parco della Piana proprio l'assetto di una discarica. Questo chiaramente ha autorizzato anche poi i furbetti a scaricare in modo incontrollato e appunto e furbesco. L'ingresso, l'arrivo degli abitanti negli ultimi 2 anni ha fatto in modo che questa cosa cambiasse di segno e i fenomeni sono anche diminuiti. Purtroppo continueranno e certamente bene fanno gli enti a ripulire e a portare via quello che si deve portare. Andiamo un po' avanti, guardiamo cosa succede sulla Repubblica del 31 gennaio. Ecco, come ho detto un po' scherzosamente all'inizio, c'è questo avvertimento per Renzi, campagna flashback, in città 2 giorni a settimana. Previste passeggiate nei mercati e alle cascine, gite in bici fino ai Renai, viaggi in tram e scorrazzate in Vespa. Ritorno ai tempi da sindaco. Ecco che Firenze torna purtroppo ad essere funestata da quello che si sente in qualche modo il suo feudatario, che è appunto Matteo Renzi, che sicuramente cerca di non perdere consensi laddove nella città dalla quale che ha usato come trampolino di lancio, lo ricordiamo prima alla provincia di Firenze, poi come sindaco di Firenze e poi come segretario nazionale, generale e presidente del Consiglio con il Partito Democratico. Ora la campagna è partita e lui torna a Firenze. Continua l'articolo, cose così, diciamo interessanti, grafica, slogan e idee verranno da spin doctor veri, non le nonne della foto pubblicitaria. La domenica della foto, scusate, non le nonne della foto pubblicata domenica scorsa su Facebook. Ma chi è che si incarica di condurre questa campagna elettorale di Renzi è Proforma, l'agenzia di comunicazione alla base dei successi di Vendola e Emiliano in terra di Puglia. Proforma che direi così per fare un po' di tra virgolette, di inchiesta, sono andato a riguardare e Proforma è l'agenzia appunto di comunicazione che è stata ingaggiata anche da TAP. Proforma conduce una campagna di comunicazione sociale abbastanza direi interessante, nel senso da vedere. Vi consiglio appunto, è molto semplice, basta andare su Google, scrivere Proforma. Credo proprio che il primo risultato sia quello dell'agenzia e tra i loro successi, tra i lavori, compare proprio la campagna di di comunicazione sociale su TAP. Io ho guardato solo uno dei materiali che direi interessante da commentare. C'è questo TAP, parliamone, la signora Maria e il gasdotto. Si racconta a fumetti, appunto come una specie di cartone animato, no, senza una specie, è un cartone animato di pochi minuti, chiaramente perché il tempo dell'attenzione viene reputato sempre basso. E c'è la signora Maria che va al mare con due amiche che poi si scoprono essere una no tap e l'altra invece sì tap. La questione esplode mentre sono al mare. Ovviamente la protagonista, la signora Maria, è una signora che non vuole essere disturbata parlando di politica e di grandi opere, e la campagna di comunicazione di Proforma arriva diciamo, al suo esito finale cercando di dirimere questa querelle sulla spiaggia attraverso il messaggio che è TAP parliamone, cioè TAP vorrebbe essere il l'ago della bilancia nella discussione tra chi è a favore e chi è contro. E quindi la campagna tende a dire che di fronte ai dubbi delle persone chiamate TAP. Cioè, ecco, direi che la cosa si commenta da solo, cioè chi dovrebbe dirimere una questione come questa? Il proponente l'opera, cioè chi è che può dire la verità su quello che è TAP se non chi lo propone? Questa è l'idea alla quale la campagna di comunicazione si ispira. E ovviamente, siccome le cose non avvengono mai per caso, andando così appunto a ricercare un po', ho visto, non lo sapevo e lo condivido con voi, come si dice oggi, condivido, è diventata una parola chiave, lo condivido con voi volentieri, alcune dichiarazioni di Renzi, ormai del 2015, però il Matteo che si rivolge sempre all'agenzia Proforma commentò nel 2015 sulla TAP c'è una bellissima campagna di comunicazione che fa vedere le immagini di una spiaggia bellissima del Salento in cui si immagina di portare il TAP e si dice qui vogliono portare un gasdotto. Poi c'è l'immagine di una cala di Ibiza dove un gasdotto è già stato portato. Ha detto Renzi, in altre parole, gasdotto o no, a Ibiza si continua a fare il bagno e a frequentare le spiagge. Ecco, questa è un'altra campagna di comunicazione sempre curata da Proforma che ha fatto molto parlare e alla quale Renzi appunto ha battuto le mani e evidentemente gli è così piaciuta da rivolgersi alla stessa agenzia di comunicazione per la propria campagna elettorale alle elezioni nazionali appunto di quest'anno. C'è da ricordare, tanto così per dirlo, che rispetto a questo parallelo, paragone che vorrebbe essere fatto in questa campagna di comunicazione tra la spiaggia di Ibiza, sotto la quale è già stato fatto passare un gasdotto, e la situazione salentina, che ricordano i comitati pugliesi che lo sbarco, diciamo, l'impatto di TAP è 25 volte più grande di quello spagnolo della quale parla la campagna di comunicazione di Proforma. Quindi, in buona sintesi, di cosa vogliamo parlare? Si paragonano cose dissimili, che nulla hanno a che fare una con l'altra. Questo è, quello che avviene in questa campagna di comunicazione. Però è Proforma e così è. Non tanto diverso è quello che succede rispetto a, per esempio, a Toscana Aeroporti, che vorrebbe, come anche TAP, essere il parere dirimente per quanto riguarda i dubbi delle possibili popolazioni e delle genti e degli abitanti, e la stessa Toscana Aeroporti, appunto, si accredita come soggetto assolutamente green, assolutamente attento ai bisogni dell'ambiente, portando come esempio il fatto di aver realizzato l'aeroporto alle isole Galapagos. E quindi non vediamo, appunto, come spesso abbiamo detto, cosa ha a che vedere la realizzazione di un aeroporto su isole, diciamo, deserte con la realizzazione di un aeroporto in quella che è l'area metropolitana più densamente popolata della Toscana e una delle aree più popolate del centro Italia. Ci sembrano cose assolutamente imparagonabili, esattamente come sono imparagonabili la spiaggia di Ibiza con la situazione di Focognano, scusate, Focognano, di San Foca, Melendugno e i comuni della costa più particolarmente coinvolti da TAP. Però insomma, ecco, era interessante il legame tra l'agenzia di comunicazione Proforma, che fa la campagna elettorale per Renzi, che è la stessa che ha curato la campagna elettorale e la campagna di comunicazione per il TAP con la signora Maria. Andatevela a guardare perché è abbastanza interessante. Passerei al 31 di gennaio, un articolo della Repubblica. C'è questo tema che poi ricorre anche in altre notizie, forse ne riparleremo anche in seguito. Ora non ricordo esattamente l'ordine degli articoli che ho selezionato. Il capitale straniero conquista Firenze, 129 le partecipate da società estere. C'è questa informativa di Infocamere che calcola che gli investitori di oltre confine detengono quote di imprese locali per quasi 5 miliardi. Sedotti dalla qualità della vita e da buone occasioni di shopping, soprattutto nel campo agroalimentare e dell'alta moda. 323 le aziende con più di 1 milione di euro di fatturato, partecipate da almeno una persona giuridica straniera, che sia un soggetto industriale o un fondo di investimento non fa distinzione. Siamo nel campo dell'attrazione di capitali stranieri. Firenze gioca un ruolo decisivo all'interno della regione. Più di un terzo delle imprese a capitale straniero insediate in Toscana si concentra nella provincia di Firenze, sono 129. Ecco quindi che insomma, è forte la presenza degli investitori stranieri nella nostra regione. Chiaramente questo non è un caso perché gli investimenti fatti dalle aziende straniere sono favoriti perché, come recita anche l'articolo seguendolo, incardinati in un pacchetto di 20 protocolli d'intesa che la regione attraverso Invest in Tuscany ha stipulato con altrettante multinazionali per aiutarle ad investire nel territorio. Quindi la regione cosa fa? Offre agevolazioni nelle pratiche autorizzative, da quelle urbanistiche, sanitarie, alla collaborazione e finanziamenti per i corsi di formazione, interazione con i centri universitari di ricerca, relazioni di forniture e scambio con l'indotto, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questi investimenti sono agevolati, come appunto abbiamo detto, quindi non c'è assolutamente non opera nessuna particolare libertà del mercato, ma il mercato viene condizionato anche dall'aiuto e dalle agevolazioni che gli istituti e gli enti pubblici mettono a disposizione di questi capitali esteri che arrivano nella nostra regione. Cosa ridistribuiscano poi è tutto un altro conto, un altro paio di maniche, perché sappiamo con assoluta certezza, insomma, fondandosi sia su quella che è la nostra percezione, che non va assolutamente gettata via, quello che, insomma, che conosciamo, gli amici, le parentele, quelli che conosciamo, sappiamo come se la cavano, che lavori fanno, molti sono andati all'estero e ognuno nella propria cerchia ha una percezione di quello che è la situazione attuale. E poi, se vogliamo fondarci o in qualche modo utilizzare anche elementi statistici, sappiamo con assoluta certezza, per esempio, che ci troviamo in una situazione tra il World Economic Forum di Davos e, per esempio, c'è stato il rapporto della Oxfam, che come più o meno saprete è questa diciamo, confederazione internazionale di ONG che operano nel campo, diciamo, della riduzione delle povertà, che hanno denunciato un allargamento fortissimo della forbice tra povertà e ricchezza, particolarmente preoccupante in Italia e in altri paesi d'Europa. Quindi, cosa poi venga ridistribuito di questi investimenti è tutto da discutere e da valutare. Diciamo con tranquillità che insomma, sappiamo che il PIL, la crescita, insomma, utilizzando il PIL come parametro della crescita economica, sappiamo che il 2018 sembra essere l'anno dell'uscita dall'euro, dalla crisi, non solo per quello che riguarda le bilance commerciali italiane, ma anche per l'Europa e per molti altri paesi e in generale per l'economia mondiale. È anche vero che, appunto, come dicevo prima, nel mentre paradossalmente il PIL, gli indicatori del PIL crescono, dall'altra parte crescono anche fortissimamente le diseguaglianze sociali. E quindi possiamo da una parte dire che non c'è un diretto collegamento, una diretta proporzionalità tra aumento diciamo, della felicità sociale e del PIL, cioè sono due cose diverse. Una cosa è la crescita economica, un'altra cosa è il benessere, la salute e la felicità delle popolazioni. Dall'altra parte, possiamo dire che in questi anni la crisi, dal 2000, diciamo, esplosa, quella che abbiamo visto esplodere con la questione dei mutui subprime nel 2008 e dalla quale sembra, si dice, che l'economia mondiale sta uscendone dopo 10 anni, quindi più o meno oggi, ha svolto anche una funzione che alcuni economisti hanno definito costituente, nel senso che ha permesso alle elite economiche e finanziarie di riorganizzare i rapporti tra le classi sociali. Quindi a forza di dumping, di riduzioni salariali, non solo di riduzioni salariali, ma anche di attacco fortissimo diretto a quello che era la struttura del salario, quindi da una parte limitare o bloccare l'aumento degli stipendi, dall'altra anche eliminare o tagliare continuamente e quindi erodere la spesa sociale, quindi la parte di salario sociale. Di salario indiretto che veniva restituita in forma di servizi, la scuola, la sanità, i servizi sociali, le politiche sulla casa e altre forme di redistribuzione della ricchezza. Tutto è cominciato presto, dalla metà degli anni 90, perlomeno per quanto riguarda il nostro paese, e è continuato in modo abbastanza lineare fino a che dal 2008 in poi ha avuto indubbiamente un'accelerazione. Questa accelerazione, appunto, ha creato la situazione di cui si stava parlando. In sostanza, come anche quest'articolo che ho appena letto sulla presenza dei capitali stranieri e delle agevolazioni che vengono portate, molto dell'uscita dalla crisi è stata dovuta proprio a questo tentativo di rendere l'Italia, i nostri territori attraenti per investitori esteri. Investitori esteri che appunto sono arrivati e che ristrutturano le nostre economie in quello che, come dicevo prima, molti economisti hanno chiamato chiamano o definiscono, o vedono, credo, a buon diritto, come una politica neomercantilista. Cioè fondata sulle esportazioni. Che succede? Molte aziende vengono a investire in Italia, portano i loro stabilimenti produttivi. Si è assistito infatti non a caso anche a fenomeni cosiddetti, sempre utilizzando categorie anglosassoni, di reshoring, cioè di ritorno di fabbriche o di insomma sì, di capitale produttivo che era stato portato all'estero magari dalla metà dei 90, degli anni 90 fino alla prima metà degli anni 2000, alcune sono tornate, altre nuove sono arrivate, quindi abbiamo economie sempre più fondate sull'esportazione di prodotti, esportazione che si realizza tenendo bassissimi i salari, i diritti, le condizioni dei lavoratori all'interno del paese. E quindi questo cosa permette? Permette di fare soldi a chi esporta, cioè alle aziende che investono, ai capitani d'industria, e invece troviamo il paradosso di persone che lavorano per salari da fame, lavorano senza poi avere salario indiretto, welfare e politiche di sostegno al lavoro e al reddito, che non hanno certamente soldi per ricomprare quello che producono. E questo è quello che sta succedendo, appunto, succede anche nei nostri territori, come ci ha dimostrato questo articoletto che poi magari dirà, appunto, come ho detto, viene riportato anche più avanti. Nonostante questo, il 31 gennaio, sulla Nazione troviamo l'articolo in cui il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, che ricordiamo insieme a Ferragamo, insieme a tanti altri protagonisti, nella manifestazione, clamorosa, direi, sotto davanti all'aeroporto di Peretola per il sì alla nuova pista, ci dice che il lavoro c'è, oltre 23.000 posti entro marzo. I dati per la città metropolitana, i profili più ricercati, informatici e ingegneri. Quindi nell'articolo garantisco che non ci è dato sapere in quali settori e per cosa ci saranno, però il titolo è sensazionalistico. Il lavoro c'è, oltre 23.000 posti entro marzo. Vediamo che succederà e dove saranno. C'è poi questa notizia, si vola a febbraio, finisce il mese di gennaio, comincia febbraio, una notizia veramente triste e angosciante, che è quella del signore che nella zona della casa del Poggetto si impicca per poche ore prima dello sfratto. È una notizia sulla quale, secondo me, è stata fatta una forte confusione perché non si capisce. Cioè si mescola la questione dello sfratto con in questo caso specifico non si capisce bene, o meglio, io non l'ho capita, ve lo dico così, perché appunto sembra che quest'uomo fosse vivesse in una casa intestata al fratello, non pagando le quote del condominio, erano arrivati, questo signore era arrivato a contrarre un debito di circa 150.000 euro e da qui lo sfratto. Sfratto che non si capisce se viene diciamo richiesto dal fratello, e quindi la notizia sarebbe cioè ci porterebbe a riflettere sull'infamità di un familiare, oppure se lo sfratto è scattato perché il condominio o l'amministrazione del condominio si è rivalsa su questo signore e quindi lo stavano sfrattando perché volevano entrare in possesso dell'alloggio come in risarcimento delle quote non pagate. Gli articoli del giornale, di tutti i giornali che hanno parlato della notizia, sia il Corriere Fiorentino che la Nazione che la Repubblica, non si capisce appunto il perché di questo sfratto, però diciamo c'è in almeno un caso un elemento di infamità che volevo segnalare. Ora mi è sfuggito, vediamo se lo riesco a ritrovare. Lo sfratto del Signore è del Corriere, che veramente in questo caso riesce forse a superare anche gli altri giornali, che ecco, dice che poche ore prima che arrivassero le autorità si era tolto la vita. Quello di ieri era il primo accesso per eseguire lo sfratto, con l'impiego della forza pubblica. Difficile pertanto che si sarebbe arrivati a buttare il sessantenne fuori casa. Di solito servono almeno 3 o 4 tentativi prima che la situazione sia giudicata così difficile da dover intervenire per liberare la casa. Ecco, il Corriere ci tiene a dire che molto probabilmente lo sfratto non si sarebbe neanche fatto, cosa che appunto chi ha esperienza di queste situazioni sa perfettamente che quando si arriva poi alla forza pubblica, e appunto quel giorno stavano entrando con la forza pubblica, gli sfratti vengono fatti, e anche se questa situazione non ha molto a che vedere con quello che è invece la situazione degli sfratti per morosità, degli sfratti dalle case popolari o di quello che succede anche nelle situazioni considerate abusive di occupazioni illegittime. La dinamica dello sfratto è una dinamica molto violenta e è inutile stare qui a giustificarsi, ad arrampicarsi sugli specchi dicendo sì, no, ma poi vengono, ma in realtà poi lo sfratto non lo fanno. Gli sfratti li fanno e come? Lo sanno bene i compagni e le compagne che da anni, attraverso il movimento di lotta per la casa o i comitati di lotta per la casa, ad essi fanno opposizione. Quindi è una dinamica molto violenta e mi sembra abbastanza paraculistico questa specifica che il Corriere inserisce all'interno di questo articolo. Si torna sempre il 2 febbraio, si torna sul PIL, quello che appunto ho cercato di descrivere un po' prima. C'è una ricerca del centro di studi di Intesa San Paolo, per cui prendiamola per quello che vuol dire, tra le città metropolitane che fanno registrare una variazione del prodotto interno lordo superiore alla media italiana, chi c'è? C'è Firenze, ovviamente c'è Firenze. Quindi mi sembra abbastanza importante quello che ho già detto. C'è un aumento significativo delle presenze turistiche. Firenze è tra le prime 5 città metropolitane in Italia, anche per aumento del numero di multinazionali straniere che optano e investono nell'area. Palazzo Vecchio ha aperto un canale privilegiato per favorire ricerca e innovazione. Con chi l'ha aperto? Con le multinazionali, che quali sono? Nuovo Pignone, la Menarini, Corporazione America, che appunto è partner di Toscana Aeroporti e la proponente del nuovo aeroporto, la Eli Lilly, Ferragamo, Finmeccanica, Gucci, LVMH, la stessa Intesa San Paolo. Ecco, queste sono le partnership di Firenze, che poi la vedremo un pochino più avanti, durante il giorno del diciamo durante negli articoli del 3 febbraio, con i quali più o meno vado a chiudere il tentativo di Firenze, della città, dei superpotenti, così come li chiama la nazione, di fare lobbying, pressioni e stringere rapporti con il consolato USA, preoccupati forse che l'idea così dichiarata da Trump dell'America First voglia dire o rischi di tagliare fuori o ridurre i rapporti, ovviamente si sta parlando di rapporti commerciali e in qualche modo economici con Firenze, hanno pensato bene di organizzare una bella cena a Villa Bardini, ci mancherebbe altro, per parlare di tutte, diciamo, delle prospettive che ci saranno per il futuro della città e dei rapporti con gli americani. Ovviamente leggo letteralmente dal giornale, dalla Repubblica, che fa, diciamo, un bell'articolo di commento: la cena a Palazzo Bardini con la candidata alla presidenza del Centro di Firenze per la moda italiana è Antonella Manzi. Sembra essere stata, non so, in qualche modo una forte protagonista di questa cena. La serata è organizzata dal presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, per invitare il console americano Benjamin Wooler, diciamo, leggiamolo così, con l'obiettivo di stringere rapporti tra il consolato e la città, che esporta verso l'America 1.300.000 euro. Il 15% del suo export manifatturiero. Ecco il discorso che ho fatto prima sul peso dell'export, è qui confermato. Verso l'America, dall'Italia escono merci e poi rientrano capitali per 1.300.000 euro. Manzi, questa Manzi, che in qualche modo si candida anche insomma, come soggetto politico imprenditoriale su Firenze, esce da ex Fiorentina, ha passato in città gran parte del suo tempo come autorevole presidente dei Giovani Industriali e di Confindustria Toscana, per poi superare con successo la difficile prova di presidente di Monte dei Paschi di Siena, fino ad approdare a Roma, alla vicepresidenza nazionale di Confindustria, ma senza dimenticare la città. Quindi alla cena c'erano veramente un po' tutti i protagonisti di questi mesi, e l'obiettivo dichiarato era quello di stringere rapporti con gli Stati Uniti, ovviamente anche per quello che riguarda gli studenti americani, che sono l'auto importante affare, come abbiamo anche commentato nello scorso pillolo, per quanto riguarda l'affare degli student hotel dell'azienda Hines e dei progetti che ci sono sul quadrante del centro fiorentino rispetto agli studentati di lusso. L'ultima notizia con cui che vi vado a leggere e a commentare è quella della vedova. A Prato della Vedova spiazza tutti sull'aeroporto. Il candidato di Più Europa dice: per Etola meglio investire sui collegamenti con Pisa. Quindi si apre questa discussione all'interno del Partito Democratico Pratese, del quale l'esponente, il sindaco Biffoni, renzianissimo, dice che prima di Peretola è importante l'inceneritore, mentre quest'altro nuovo, diciamo, soggetto politico non vorrei subito litigare, ma meglio investire sui collegamenti ferroviari con Pisa che fare un aeroporto doppione in una sola regione. Chiaramente queste sono sempre dichiarazioni che vanno lette nella cornice delle campagne elettorali nazionali che si avvicina. Rispondiamo appunto che ci interessa soprattutto le lotte, ci interessa soprattutto la crescita dei movimenti dal basso e con questo diciamo appello alla mobilitazione, alla sorveglianza popolare, alla crescita dell'auto-organizzazione sociale, vi faccio un saluto, spero di non avervi troppo annoiato, ci sentiamo alla prossima settimana per il prossimo pillolo, quindi ascoltateci, mi raccomando, lunedì diretta alle 15:30 e le repliche martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sempre alle 15:30, o se no il podcast quando volete. Ve lo scaricate e ve lo ascoltate. Occhio a chi incontra Renzi per la strada, lo saluti anche da parte mia. Ciao ciao ciao!